e vorrei fermare il tempo che ho perso e non ho chiesto, perché mi fa male dirti che l'inverno che ho dentro mi fa ricordare solo i giorni tristi, mi salti le crisi che si fanno piccoli, e io che in questi anni ho scelto me, ti cerco allo specchio. Da un passo lento siamo a quattro, sola chiudo gli occhi, scatto un autoritratto, con la luna fa contatto, mi sembra impossibile pensarti ma lo faccio. L'umore gioca alla roulette, mi prende come in un ballo, in pista poi balla scalzo. Alzo lo sguardo e vedo me, 10 anni per farci un valzer col tuo cuore di marmo. Perché le comete dopo passano e cadono, io a volte sono là come ad un passo dal baratro, e la felicità è più uno stato d'animo, la cerco come il sole dopo che sto nel panico. Mi sento freddo, serve un cambio d'abito, e le mie lacrime sono di un altro calibro. I giorni in cui ho pensato di starti accanto, ma i giorni in cui e vorrei fermare il tempo che ho perso e non ho chiesto, perché mi fa male dirti che l'inverno che ho dentro mi fa ricordare solo i giorni tristi, mi salti le crisi che si fanno piccoli, e io che in questi anni ho scelto me, ti cerco allo specchio. Mi cerco e ritrovo un posto nei testi che storia, unisco i pezzi e le note, registrazioni in memoria, quando cercavo me stessa dietro una maschera d'oro, per poi sentirmi più sola quando chiudevo la porta, ma penso a tutto ciò che mi faceva mancare l'aria, tutto quello che poi mi riportava a casa in una bolla, le ali in posa, non riuscivo a volare. Con dolore ci faccio un jackpot, a volte più fa male, più vuol dire che cresco. Vorrei urlare quello che ho dentro, lo faccio perché so che sono nata per questo. Sopra un grattacielo mi fermo, allungassi le mani toccherà l'universo, mentre vivo ciò che ho adesso, adesso. E vorrei fermare il tempo che ho perso e non ho chiesto,